24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il rapporto sulla crescita dell'OCSE che fa il punto sulle riforme nei paesi europei in crisi, mentre il governo Monti compie i primi 100 giorni e riflette, tra le altre cose, anche sull'agenda europea. Venerdì a Roma incontro tra lo stesso Monti e il premier irlandese. Passi avanti nel dialogo tra Serbia e Kosovo, infine vi porteremo al museo per un'esposizione che viene per la prima volta in Europa. I paesi europei in crisi, Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo, guidano la classifica delle nazioni che, sotto la spinta delle difficoltà, hanno accelerato sulle riforme strutturali accogliendo le raccomandazioni dell'OCSE, mentre l'Italia avanza anche se un poco dietro. Lo afferma il segretario dell'organizzazione, Ángel Gurría, presentando il rapporto per la crescita nell'ambito del G20 delle finanze in Messico. La buona notizia è che le riforme sono fatte, la cattiva è che c'è voluta la crisi. Per quanto riguarda l'Italia, l'OCSE indica come priorità la riduzione delle barriere alla competizione, il miglioramento dell'efficienza della struttura fiscale, in particolare riducendo le tasse sui salari e spostandole su consumi e proprietà. Primi 100 giorni di governo per Mario Monti, il premier che ha rivoluzionato in soli 3 mesi l'immagine dell'Italia in Europa. Tra gli obiettivi dell'esecutivo c'è anche quello di contare sempre di più a Bruxelles. 34 pagine per fare il punto su quanto realizzato nei primi 3 mesi di attività, dai sacrifici del decreto Salva Italia alle liberalizzazioni del pacchetto Cresci Italia fino alle misure sulle carceri e ai 20 miliardi sbloccati per le infrastrutture. Nel rapporto sui primi 100 giorni di governo pubblicato sul sito di Palazzo Chigi c'è spazio anche per i risparmi ottenuti dalla Presidenza del Consiglio nel suo nuovo corso all'insegna della sobrietà. 43 milioni ottenuti tagliando le spese per personale, parco auto e soprattutto per i voli di Stato, ridotti del 92%. Con il documento il governo spiega anche di aver messo il massimo sforzo per dare attuazione agli impegni presi con Bruxelles, obiettivo dichiarato quello di trasformare l'Italia da paese in emergenza a modello in Europa, un traguardo raggiungibile, ma tutte le componenti della società devono partecipare allo sforzo per la salvezza e il rilancio dell'Italia, ricorda l'esecutivo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Saremo un esempio in Europa, ha dunque detto Monti, che venerdì ha incontrato a Roma il premier irlandese. L'economia irlandese, sotto la guida del primo ministro Kenny, è una buona dimostrazione di quello che anche in Italia noi diciamo spesso ai cittadini, e cioè che le misure di consolidamento di bilancio, le misure di rigore e le riforme strutturali possono essere difficili da affrontare e da sopportare nel brevissimo periodo, ma poi generano effettivamente la ripresa della crescita economica. Il Fondo Monetario Internazionale può giocare un ruolo più ampio nella crisi europea del debito dopo che l'Unione avrà rafforzato il proprio firewall anticrisi, lo afferma il segretario del Tesoro statunitense Tim Geithner in un'intervista alla CNBC. Durerà fino al 9 marzo la procedura di scambio sui titoli di Stato della Grecia, con la quale i creditori privati che aderiranno, prevalentemente banche e assicurazioni, accetteranno di subire un taglio del 70% circa sui pagamenti effettivi rispetto al valore iniziale dei bond. Questo dovrebbe consentire di alleggerire di oltre 107 miliardi di euro il fardello di debito che grava sul paese, pari a 350 miliardi totali. Herman Van Rompuy si prepara a succedere a se stesso alla presidenza stabile dell'Unione Europea, diventando anche il primo presidente dell'Eurosummit. Fonti concordanti riferiscono che il vertice del 1 e 2 marzo confermerà l'ex premier belga, 65 anni, a un nuovo mandato alla testa dell'Unione e lo incoronerà anche a capo del nuovo forum dell'Eurozona. E adesso parliamo dei mercati. I listini europei hanno chiuso in rialzo, trascinati dal buon andamento del settore bancario dopo i cali della vigilia. A Milano il FTSE MIB ha concluso la giornata più 1,07%. Il dialogo tra Pristina e Belgrado si è concluso a Bruxelles con un accordo. Il risultato è particolarmente importante in vista della discussione sulla concessione dello status di candidato alla Serbia di lunedì e martedì. L'intesa si basa principalmente su 2 punti, la partecipazione del Kosovo ai forum regionali ed Europa-Balcani, insieme all'applicazione operativa degli accordi precedenti, in particolare sulla gestione integrata delle frontiere. L'alto rappresentante europeo della politica estera Catherine Ashton e il commissario europeo all'allargamento Stefan Füle considerano le intese raggiunte al dialogo tra Pristina e Belgrado un passo decisivo in avanti verso il percorso europeo.